Capitolo 84. Cleobi e Bitone. Cleobi e Bitone, due giovani argivi, erano figli della sacerdotessa di Era ad Argo. Quando venne il tempo in cui la sacerdotessa doveva celebrare i riti della dea, né ancora erano giunti dal pascolo i bianchi buoi da giogare al carro, Cleobi e Bitone, indossati i finimenti, trainarono il carro fino al tempio per una distanza di circa 5 miglia. Commossa per tanta devozione filiale, la sacerdotessa invocò la dea affinché concedesse ai due giovani il dono migliore che concedere si possa ai mortali. E quando furono celebrati i riti, Cleobi e Bitone si addormentarono nel tempio per non svegliarsi mai più. Un dono analogo fu elargito ad Agamede e a Trofonio, figli di Ergino. Questi gemelli avevano posto una soglia di pietra sopra le fondamenta gettate da Apollo stesso per il suo tempio a Delfi. L'oracolo allora disse: «Vivete allegramente e abbandonatevi a ogni piacere per 6 giorni. Al settimo il desiderio del vostro cuore sarà esaudito». Al settimo giorno ambedue furono trovati morti nei loro letti. Di qui nacque il detto: «Muor giovane colui che al cielo è caro». Trofonio fu in seguito ricompensato con un oracolo che profetizzava in suo nome a Lebadea in Beozia. Il mito di Cleobi e Bitone si riferisce evidentemente ai sacrifici umani che venivano offerti ogni qualvolta si consacrava un tempio alla dea Luna. Ad Argo si sceglievano fratelli gemelli come sostituti dei co-re e aggiogati al carro della Luna in sostituzione dei buoi bianchi, essi si avvicinavano al luogo del sacrificio. Dovevano poi essere sepolti presso la soglia del tempio per tenere lontani gli spiriti maligni. Per questa ragione, forse i gemelli Castore e Polideuce venivano a volte chiamati Ebalidi, che probabilmente significa figli della soglia del tempio anziché dal vello maculato. I sacerdoti di Apollo, a quanto pare, adottarono questo rito a Delfi, benché negassero alla dea Luna ogni diritto sul tempio. La funzione planetaria del settimo giorno, che era sacro al titano Crono e al cronio Geova a Gerusalemme, era quella del riposo, ma riposo significava morte in onore della dea. Ecco perché Trofonio fu ricompensato con un oracolo eroico.